convenuti in numero così copioso a questa commemorazione funebre. Un afflato di compassionevole fratellanza ci spinge sicuramente a principiare. Ci spinge a principiare stringendoci idealmente in un unico caldo abbraccio. Noi e voi qui presenti in sala. Stasera. Per lui. Claudio ci ha lasciati. E in questo momento ci sta guardando. Da lassù, in paradiso. Assiso tra angeli. Santi. Beati di ogni specie. No, d'ogni speme. Aspetta. Beati d'ogni speme. Beati d'ogni speme. Di lui ci piace ricordare soprattutto l'umana pietà, la cristiana generosità, la disarmante spontaneità, la semplicità e l'onestà intellettuale. L'umiltà. La forza nelle difficoltà. La veridicità. La beltà. Vorrei ricordarlo. E di lui ci piace riportare qui. Un passo. Che amava molto. Di un celebre autore latino. Nelle cui letture Claudio soleva sovente leggere. Nella vita quotidiana. Questo esametro. Che la giovane moglie ha voluto far incidere a lettere d'oro sulla lapide. Sulla bara del marito. È del grande poeta Publio Virgilio Marone. Virgilio Marone. Dalla sua opera magna. Georgico. L'esametro recita. Optima quaeque dies miseris mortalibus ebi primo fugit. La disperazione mi chiude la gola. Il dolore è troppo forte. Il cordoglio mi attanaglia. Mi sento mancare. Piango. Più forte. Se qualcuno vuole intervenire per l'ultimo saluto alla salma, può farlo. Questa non è la nostra canzone. No. No. Ma tu non sei Claudio? No. Io sono Matteo. Ah. Allora, ciao. Estratti dallo spettacolo Post It, creazione collettiva di teatro sotterraneo. In scena Sara Bonaventura, Jacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri. Drammaturgia Daniele Villa. Lo spettacolo L'auto da fè del camminante, tratto da L'autodifesa e The Walker di Arturo Giovannitti, adattamento e regia di Stefano Sabelli, con Diego Florio. Nell'Italia monarchica, da poco unita sotto il regno dei Savoia, Arripa Bottoni, paesino del Molise, in una famiglia benestante, il 7 gennaio del 1884, nasce Arturo Giovannitti. Arturo cresce con buoni studi e con fieri ideali di libertà e democrazia. Imparò ad amare e rispettare il nome di Repubblica. Nel 1901, appena diciassettenne, Arturo, che già parlava quattro lingue, spinto non dalla fame, ma piuttosto dal desiderio di una nuova vita in una terra che credeva più libera e di progresso della sua, si imbarcò per il nuovo mondo. Giunse prima a Montreal, dove studiò teologia. Poi andò a New York, alla Columbia University. Infine arrivò in Pennsylvania, dove esercitò il pastorato evangelico fra i minatori di carbone. Abbandonato il pastorato e divenuto lui stesso minatore, maturò una forte coscienza sindacale in difesa degli operai, degli umili e gli oppressi, specie immigrati. Intorno al 1910 divenne fra i più apprezzati oratori del movimento dei Wablis, gli anarco-sindacalisti aderenti all'Industrial Workers of the World. Nel gennaio del 1912, in Massachusetts, iniziava il grande sciopero alla Lawrence Textile, meglio noto come Bread and Roses Strike. Ci furono molti disordini e un'operaia di 17 anni, Anna Lopizzo, rimase uccisa negli scontri con la polizia. L'operaio Joseph Caruso fu accusato d'essere l'esecutore materiale dell'omicidio, mentre Arturo Giovannitti e Joe Hector, fra i maggiori animatori dello sciopero, accusati di istigazione all'odio di classe, furono ritenuti i mandanti di quello stesso omicidio. Il 29 gennaio furono arrestati, rischiavano la sedia elettrica. Mentre in tutto il mondo ci furono manifestazioni e sollevazioni per la loro causa, in carcere e in attesa di giudizio, Giovannitti compose il poema The Walker. Il 23 novembre dello stesso 1912, nel tribunale di Salem, famoso per i processi alle streghe di fine Seicento, si celebrò per i tre italiani il primo dei grandi processi americani del XX secolo. Sul banco degli imputati, insieme a Joseph J. Hector e Joseph Caruso, salì per autodifendersi da quell'accusa infamante anche Arturo Giovannitti, che Prezzolini definì il bardo della libertà. Tutta la notte sento i passi sulla testa. Vanno e vengono, rivanno e rivengono tutta la notte. Un'eternità nei quattro passi che vanno, un'eternità nei quattro passi che vengono. E fra l'andare e il venire c'è il silenzio. La notte, l'infinito. che infiniti sono i 9 piedi di una cella di prigione. È senza fine la marcia di chi cammina tra il muro di mattoni gialli e il rosso cancello di ferro. E che pensa a cose che non puoi incatenare, che non puoi imprigionare perché vagano libere. Nella luce solare del mondo, ognuna selvaggia e pellegrina verso la meta che gli è destina. Tutta la notte, l'intera notte, io sento i passi sulla testa. Chi cammina? Non lo so. È il fantasma della galera. Il cervello che non dorme. Un uomo. L'uomo. Il camminante. Signor Presidente, signori della Corte, è la prima volta nella vita che parlo in pubblico nella vostra meravigliosa lingua e nel momento più solenne della mia vita. Non so se riuscirò ad arrivare alla fine della mia testimonianza. Il procuratore distrettuale e gli altri signori della giuria abituati in quest'aula a seguire con distacco ogni umana emozione non possono comprendere la tempesta del mio animo in questo momento. Ma i miei amici e compagni che mi hanno preceduto, questi gentiluomini qui presenti, lo sanno benissimo. Se mi mancheranno le parole, se non arriverò a concludere la breve esposizione dei fatti, sarà per la sovrabbondanza di emozioni che stanno affogando il mio cuore. Mi rivolgo a voi non per riesaminare tutto il dibattimento. Come ha rimarcato l'erudito procuratore distrettuale, penso di avere avuto uno dei più eccellenti, se non il più eccellente avvocato di questo Stato a difendere la mia vita e la mia libertà. Non entrerò nel merito delle testimonianze qui addotte, in quanto credo che voi, signori giurati, a questo punto abbiate già una ferma e risoluta convinzione. Ormai dovreste sapere, dovreste aver capito se ho pronunciato o no le parole che mi sono state attribuite da questi due detective. Dovreste sapere se sia possibile, non solo per un uomo come me, ma per qualsiasi essere umano, pronunciare le parole atroci, le scellerate parole attribuitemi. Riguardo alla testimonianza accolta nel caso, dirò solo che se c'è o c'è mai stata nel cuore di qualcuno dei presenti oggi in quest'aula la volontà di uccidere, quest'uomo, signori giurati, non siede in questa gabbia. Uno, due, tre, quattro. Quattro passi il muro. Uno, due, tre, quattro. Quattro passi. E il cancello di ferro. Lui misura il suo spazio. lo misura accuratamente, scrupolosamente, minuziosamente, come il boia misura la corda e il becchino la bara. Tanti piedi, tanti pollici, tante frazioni di pollice per ciascuno dei quattro passi. Uno, due, tre, quattro. Ogni passo rimbomba pesante e vuoto sulla testa. E l'eco d'ogni passo mi rimbomba vuoto nella testa. E li conto con ansia nel timore che stavolta forse nel cammino senza fine saranno cinque passi anziché quattro tra il muro di mattoni gialli e il rosso cancello di ferro. Ma lui ha tanto accuratamente e scrupolosamente e minuziosamente misurato il suo spazio che nulla rompe il ritmo grave della lenta, irreale marcia. Quando tutti dormono, e chi più di me sa, quando tutti dormono, tre cose sono ancora sveglie nella notte. Il camminante, il mio cuore, e il vecchio orologio che ha l'anima del diavolo, e che mai da quando la rozza mano coi peli rossi ne fece oscillare per la prima volta il pendolo in galera col suo vecchio tic-toc, mai ha segnato una sola piena ora di gioia. Eppure, quel vecchio orologio che marca e registra ogni cosa e per ogni cosa batte e ribatte a morte, quel vecchio saggio orologio che sa ogni cosa, ignora il numero dei passi del camminante come pure i palpiti del mio cuore, che né per il camminante né per il mio cuore c'è un secondo, un minuto, un'ora o altra cosa nel vecchio orologio in esso. In esso non c'è altro che la notte, la vigile notte, e passi che vanno, e passi che vengono, e selvaggi, tumultuosi battiti che si susseguono in eterno. Tutti i suoni degli esseri viventi e delle cose inanimate, e tutte le voci e tutti i rumori della notte ho sentito nella mia veglia penante. Noi siamo andati a Lorenz, come ha detto il mio nobile compagno. Per me è un nobile compagno il signor Hector. Perché spinti da qualcosa di più alto e nobile di quanto il procuratore distrettuale o chiunque altro dei presenti possa comprendere e realizzare. Se non temessi di commettere un sacrilegio, direi che andare ad investigare sui motivi che ci hanno spinto a recarci a Lorenz sarebbe come chiedere perché il Redentore sia sceso sulla terra. O perché, come ha detto il mio amico, proprio in questa confederazione, nella City di Boston, Lloyd Garrison è stato trascinato per le vie con un cappio intorno al collo. Perché tutti i grandi uomini e maestri di pensiero, perché, domando, hanno sempre predicato il nuovo Vangelo di fratellanza e amore. Sarebbe bene, è bene investigare sulle azioni umane, è giusto accertare la verità, è doveroso portare il criminale sul banco degli imputati. Ma qui è stata raccontata soltanto una parte della nostra storia. Come ha rimarcato nella sua ringa il nostro avvocato, il signor Peters, l'altra metà non è stata mai raccontata. Gli è stato consegnato un volantino sull'Industrial Workers of the World, il nostro sindacato. E il procuratore distrettuale non ha potuto produrre altre prove contro il movimento socialista, perché sapeva bene che qui c'era un uomo in grado di confutare le sue asserzioni e ribatterli nel merito più di quanto egli potesse immaginare qui sin dal principio. Qui è stato esaminato un solo aspetto del grande problema industriale, soltanto il metodo e la tattica. Ma che ne è, io chiedo, della parte etica della questione? Cosa del lato umano e umanitario delle nostre idee e del nostro domani, così come noi lo vediamo, e della nostra condizione futura, che ci auguriamo migliore per tutti gli operai, qui da questa stessa gabbia, dove si è seduto il malfattore, da questa stessa gabbia per la quale sono passati l'ubriacone, la prostituta, l'assassino prezzolato. Non vogliamo pensare all'aspetto etico della questione. Che cosa intendiamo fare della parte migliore e più nobile dell'umanità, quella cui ripugna la schiavitù? Ho sentito i lamenti di chi soffre per una cosa perduta e i rimpianti di chi cerca di sopprimere un dolore che non morirà. Ho sentito i singhiozzi repressi di chi soffre con la testa sotto le ruvide coperte e i sussurri di chi prega con la fronte con la dura fredda pietra del pavimento. Ho sentito la risata sinistra e stridula di chi ride di follia per il feroce orrore sul muro giallo e per gli occhi rossi dell'incubo accecante che attraversa le barre di ferro. Ho sentito nell'improvviso glaciale silenzio i secchi colpi di tosse di chi scatarra martellante desiderando pazzamente che la sua gola non rantolasse più e che non sputasse più sul pavimento, perché nessun suono era più atroce nel suo scatarro sul pavimento. L'ho sentito bestemmiare i terribili giuramenti che ho ascoltato con riverenza e soggezione, perché più sacri di suppliche di vergini. E ho sentito, più terribile di tutto, il silenzio di 200 cervelli posseduti da un solo, spietato, inesorabile, disperato pensiero. Tutto questo ho sentito nella notte di veglia, e il mormore del vento al di là dei muri, e i rintocchi di una campana lontana, e il triste lamento della pioggia, e più remoti echi della città dolente, e i selvaggi, tumultuosi battiti dell'unico cuore più vicino al mio cuore. Tutto questo ho sentito nella quieta notte, ma niente più duro, più tetro, più forte, più potente dei passi che sento sulla mia testa tutta la notte. Signori giurati, riusciamo ad immaginare il tempo in cui nessun uomo sarà più costretto a scioperare per ottenere un aumento di 50 centesimi alla settimana? Quando i bambini non moriranno più di fame? Quando le donne non saranno più costrette a prostituirsi? Lasciatemelo dire, anche se ci sono donne in quest'aula, perché la verità deve pur venire a galla prima o poi. E infine, quando non ci saranno più schiavi né padroni, ma una sola grande famiglia di amici e di fratelli. Darsi che voi, signori giurati, non crediate in questo. Forse noi siamo sognatori? Forse noi siamo fanatici, signor procuratore distrettuale? Ebbene, noi siamo fanatici. Ma anche Socrate fu allora fanatico, il quale alla filosofia degli aristocratici di Atene preferì la pozione di cicuta. Ugualmente fanatico fu Gesù Cristo, il quale, piuttosto che riconoscere Pilato o Tiberio quale imperatore di Roma, piuttosto che sottomettersi e riconoscere i potenti del clero dell'epoca, accettò di venire crocifisso fra due ladroni. Ugualmente fanatici e sognatori furono tutti i filosofi e gli studiosi del Medioevo, i quali preferivano essere bruciati vivi da una di quelle chiese alle quali ora mi rimproverate di avere asserito che nessuno dei nostri membri dovrebbe appartenere. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. E penso che paurosi e terribili sono pure tutti gli altri passi degli uomini sulla terra, sia che scendano o che salgano, sia discendano da un piccolo poggio o ascendano alti picchi e superbe quote, giù per nobili scale di marmo o su per scricchiolanti scale di legno. Passi promiscui, passi di chi scende in cantina e di chi si scava la fossa, di chi sprofonda in inferni di vergogna e infamia o di chi si innalza la gloria di un insondabile abisso dove non vigila niente altro che il fisso e pallido occhio pietrificato del destino. Tutti si arrampicano per le stesse strade e scendono per le stesse scale. Perché? Perché mai, da quando l'uomo ha cominciato a premeditare come sopraffare e oltrepassare l'altro uomo, nuove altre strade e scale sono state trovate. Salgono e scendono gli uomini con passi timorosi, zoppicanti, trottanti, galoppanti e ancora con passi lenti, rapidi, febbrili, pazzi e ancora altri passi salgono, scalano la vita e l'amore, scalano la fama, il potere e la vanità, verso il fasto, verso il patibolo, verso tutto! Verso tutto. Verso tutto. Verso tutto. Verso tutto. Ma non verso la libertà. È l'ideale. Libertà. Ideale. Libertà. Ideale. Libertà. Ideale. Libertà. Ideale. Ma di tutti i passi degli uomini che salgono e che scendono, nessun passo è più terrificante e terribile di quelli che calcano come piombo il livello morto del pavimento di una prigione dal muro di mattoni gialli. Due, tre, quattro. Al rosso cancello di ferro. Libertà, ideale, libertà, ideale. Certo, signori giurati, voi siete giudici. Dovete attenervi ai fatti. Voi non dovete avere a che fare con le idee. Se in questo processo da ultimo non fosse stato introdotto un appello al patriottismo, se il procuratore distrettuale, ben conoscendo i vostri sentimenti, non si fosse appellato a voi in nome di tutte quelle emozioni che hanno dolci e profonde radici nel cuore umano, per rendervi ciechi di fronte alle verità evidenti di questa causa, io non avrei parlato. Io sono molto umile. Ho una modesta considerazione di me. Inoltre me ne sono rimasto in disparte durante tutto il dibattimento. Non ho mai parlato in alcun consesso pubblico di soli americani. Io, l'uomo venuto dal meridione d'Italia. Uno di quegli uomini che, come direbbe il procuratore, sarebbe meglio che si occupassero degli affari propri. Ora io non mi trovo qui per dirvi quale dovrebbe essere il futuro di questo paese. So tuttavia di esser venuto da un paese che è stato per secoli sotto il giogo e l'oppressione, oppresso dalla vecchia autocrazia, oppresso durante il Medioevo da tutte le nazioni europee, da tutti i vandali che ne hanno calpestato in ogni dove il suolo. E ancora oggi l'Italia è oppressa, posso dire, dalla presente autorità. E posso ben dirlo io che non credo nel potere sovrano e nella monarchia. Da bambino, signori giurati, sulle ginocchia di mia madre e di mio padre, ho imparato a rivivere con le lacrime agli occhi il nome sacro di Repubblica. E sono venuto in questo paese convinto davvero che avrei messo piede su una terra migliore e più libera della mia. No, non è stata la fame a spingermi lontano da casa. Mio padre possedeva sufficiente denaro ed energia per dare un'adeguata educazione ai miei fratelli. Avrebbe potuto fare lo stesso anche per me, a quest'ora forse sarei un apprezzato professionista laggiù. Ma desideravo conoscere il mondo e venni qui a tale scopo. Non ho alcun rancore contro questo paese. Non ho alcun rancore contro la bandiera americana. Non ho alcun risentimento contro il vostro patriottismo. Ma voglio dirvi qualcosa sul vostro modo di intendere il patriottismo. O meglio, su quello che vi è stato inculcato nella testa. Non sarò, signori giurati, compiacente coi vostri pregiudizi. Sarò franco e leale come lo è stato il mio amico. E anche di più. Per tutta la notte lui cammina e pensa. È più spaventoso perché cammina e i suoi passi rimbombano sordi sulla testa. Perché pensa e non dice quel che pensa. Ma davvero pensa. Perché dovrebbe pensare, penso io. Io sento solo i passi e li conto, quattro passi e il muro, quattro passi e il cancello. Al di là. Dove va lui, al di là del cancello e del muro? Lui non va oltre. Il suo pensiero si rompe sul cancello di ferro, forse si rompe come un'onda di rabbia, forse come un improvviso flusso di speranza, ma sempre torna a battere il muro come un cavallone impotente e disperato. Cammina avanti e indietro, risucchiato dal meschino vortice di questo furioso affogante pensiero, un solo pensiero, costante, fisso, immobile, sinistro, impotente, afono. Un pensiero pazzo, frenetico, d'agonia e disperazione. Un pensiero infuso d'inferno perché è un pensiero naturale. Ogni cosa naturale è una cosa impossibile finché ci sono prigioni nel mondo. Pane, lavoro, felicità, pace, amore. Mi piacerebbe sapere dal procuratore distrettuale, il quale ha citato le tradizioni del New England, a che cosa si riferisce. Se si riferisce alle tradizioni del New England di questa stessa città di Salem, dove si condannavano le streghe a bruciare sui roghi, o piuttosto a quelle tradizioni del New England di quegli uomini che, stufi di sottostare al pugno di ferro dell'aristocrazia britannica, spararono il primo colpo di moschetto e gettarono il tè nel porto di Boston, annunciando così al mondo l'inizio di una nuova era, segnalando che da allora in poi non più regni, non più monarchie, non più poteri ereditari si sarebbero succeduti, ma sarebbero sorti dalle rovine e dai rottami del passato un nuovo popolo, una nuova dottrina, un nuovo principio, una nuova fratellanza. Rispondete a questo. E se credete che il progresso umano sia qualcosa di incontrollabile e inarrestabile, allora non credete a quest'uomo qui, che ammiro per l'estrema scrupolosità con cui ha presentato il caso a modo suo, e al quale, se mi fosse permesso, sarei ben lieto di stringere la mano. Non crediate che il signor Hatfield, standovi di fronte a mani alzate, possa arrestare il possente esercito della splendida classe operaia, di milioni e milioni di uomini e donne, il fiorfiore della terra, che avanzano verso la meta del loro destino. No, non sarà di certo lui a soffocare nella culla il nuovo Ercole dei lavoratori dell'industria, o, per essere chiari, l'Industrial Workers of the World. Né sarà il vostro verdetto a porre un argine contro il poderoso assalto delle ondate che avanzano. Né sarà l'insignificante vita di Arturo Giovannitti offerta in olocausto per scaldare il cuore dei milionari manifatturieri di questa città, affermare il socialismo dall'essere il futuro dominatore della terra. No. No. Se a Lawrence ci fu violenza, non fu di Hector la colpa, né fu mia la colpa. Signori giurati, se risalite all'origine dei disordini, scoprirete che sorgente causa di essi è stato il sistema salariale. È stata l'infame regola del dominio dell'uomo sull'uomo. A porvi fine è stato lo stesso principio, stabilito 40 anni or sono prima della sua uccisione da un vostro grande martire come il presidente Abraham Lincoln, con un atto illegale. Mi riferisco all'emanazione del proclama di emancipazione, atto compiuto a quei tempi al di là dei limiti conferitigli dalla Costituzione degli Stati Uniti. Io affermo che si tratta ora dello stesso principio. Quel principio che allora rendeva all'uomo uno schiavo, un possedimento, un essere umano senza anima, un oggetto che si poteva vendere, comprare, barattare, e che oggi, cambiati i termini, rende lo stesso uomo bianco, questa volta, schiavo della macchina. Si dice che in questo paese grande e meraviglioso siete liberi. Politicamente lo siete, bisogna ammetterlo, me ne compiaccio e congratulo. Ma devo aggiungere che non potete essere per metà liberi e per metà schiavi. Economicamente la classe lavoratrice degli Stati Uniti rimane tanto schiava quanto lo erano i neri sino a 40-50 anni fa. Perché l'uomo che possiede gli attrezzi, di cui si serve un altro per lavorare, l'uomo che è proprietario della casa in cui un altro vive, l'uomo che è padrone della fabbrica in cui un altro va a lavorare, quest'uomo, signori, domina e controlla il pane che l'altro mangia, di conseguenza ne domina e controlla la mente, il cuore, il corpo, l'anima. Può darsi che l'argomentazione sia fuori luogo, non sono un avvocato io. Avevo premesso che non avrei discusso le prove. Forse l'onorevole corte avrà da ridire alle mie parole, o meglio alle mie semplici osservazioni, con il pretesto che non hanno alcuna attinenza con le prove qui addotte. Ma dico e ripeto che abbiamo agito per qualcosa che c'è più caro della vita e della libertà. Abbiamo agito per le nostre idee, i nostri ideali, le nostre speranze, le nostre aspirazioni. Se preferite, la nostra religione, signori della corte. Pane, lavoro, felicità, pace, amore. Ma lui non pensa a questo. Mentre cammina, pensa alla più sovrumana, la più irraggiungibile, la più assurda cosa al mondo. Pensa ad una piccola chiave. bastone che roteando d'un mezzo giro intorno a sé stessa apre il rosso cancello di ferro. Solo a quella chiave pensa il camminante mentre vaga nella notte, e solo a quella chiave pensano 200 cervelli sprofondati nelle tenebre, nel silenzio della notte. E solo a quella chiave penso anch'io. Straordinaria la suprema saggezza galeotta che porta tutti a pensare lo stesso pensiero. Meravigliosa provvidenza di una legge che fa tutti uguali, perfino nella mente e nel sentimento. Caduta è l'ultima barriera del privilegio, l'aristocrazia dell'intelletto. La democrazia della ragione ha livellato tutte le 200 menti alla comune superficialità dello stesso pensiero. Io che non ho mai ucciso, penso come l'assassino. Io che non ho mai rubato, ragiono come il ladro. Io penso, ragiono, dubito, spero, attendo come il malversatore, come l'ubriacone, la prostituta, l'assassino salariato, il contraffattore. Io che ho sempre solo pensato alla vita e all'amore, ai fiori, alla poesia, alla bellezza e all'ideale. Una piccola chiave, piccola come il mio mignolo, una piccola chiave d'ottone lucente. Ogni mia idea, i miei sogni, i miei pensieri sono congelati in una piccola chiave d'ottone lucente. Tutto il mio cervello, tutta la mia anima, tutto ciò che flutta con forza improvviso dalla mia vita più profonda nella tasca di un uomo canuto vestito di blu. È grande, possente, formidabile l'uomo coi capelli bianchi, poiché lui ha nella tasca il portentoso talismano che fa piangere un uomo e uno pregare, uno ridere, uno tossire, uno camminare, tutti restare svegli a pensare lo stesso pensiero che fa ammattire. Più grande di tutti gli uomini è l'uomo coi capelli bianchi, con la piccola chiave d'ottone, perché nessun altro uomo al mondo può costringere 200 uomini a pensare così a lungo lo stesso pensiero. Certamente quando la luce si spegne scriverò un inno per lui che l'acclamerà più grande di Maometto, Arbues, di Torquemada e Mesmer, di tutti i più grandi maestri di pensiero dell'umanità. Lo chiamerò onnipotente, poiché lui tiene in pugno ogni cosa di tutti e di me nella piccola chiave d'ottone che ha nella tasca, che costringe l'apostolo e l'assassino, il poeta e il mezzano allo stesso cancello, la stessa strada e la stessa uscita per le diverse grandi strade assolate della vita. Le diverse grandi strade assolate della vita. Voi dovreste capire perché il missionario americano, animato dalla forza della sua fede, si reca nell'Africa nera fra i selvaggi. Il signor Hatteville vi dirà che lui va lì per guadagnare un salario di $60 al mese. $100 al mese? Il signor Hatteville, con la sua mentalità mercantile, vi dirà che lui va lì semplicemente perché vuole guadagnare un suo salario, o perché grazie a quella missione fra i selvaggi la Chiesa Cattolica e la Chiesa Metodista d'America potranno ottenere da voi fedeli un contributo di 15, 20, 50 senza al mese. Ma io dico che c'è qualcosa di più grande e profondo nell'apostolato di quel missionario. E voi siete in grado di comprenderlo e realizzarlo da soli. Ed è lo stesso motivo per cui io sono venuto qui. Io sono venuto qui perché non ho potuto farne a meno. Il procuratore afferma che non c'è lecito rivolgerci alla Divina Provvidenza. Bene! Io non invoco la Divina Provvidenza. Ma penso che neppure il procuratore distrettuale possa invocarla, se al termine della sua requisitoria si è guardato bene dal dirvi che per il semplice fatto che qualcuno ignoto ha sparato ad Anna Lopizzo, una scioperante di Lorenz, dovreste dichiararci colpevoli e condannarci alla sedia elettrica. Che sarebbe giusto e doveroso soffocare le nostre voci, far cessare i battiti del nostro cuore. Non avrebbe osato dirvi la stessa cosa a Lorenz. Non si sarebbe neppure arrischiato a suggerirvi di condannarci. Eppure io vi dico, che vi piaccia o no, noi siamo gli araldi di una nuova civiltà. Siamo venuti qui per proclamare una nuova verità. Siamo gli apostoli di una nuova dottrina, di un nuovo Vangelo, che in questo preciso istante viene annunziato e testimoniato da un angolo all'altro del mondo, dall'Inghilterra, alla Cina, all'Africa, al Giappone, all'Italia. Ed è in nome di questo messaggio d'amore che intendo parlarvi, per nient'altro. Se ascoltando le parole del mio compagno e le mie, avete pensato anche per un solo istante che noi abbiamo potuto fomentare la violenza, che un uomo come me, il quale mette a nudo il suo animo qui dinanzi a voi, possa uccidere un altro uomo. Signori giurati, voi sapete che ignoro quel che dico, perché in questo momento escono dalle mie labbra soltanto parole che fluiscono irrefrenabili. Voi sapete che io non vi parlo da agguerrito oratore, già che è la prima volta che mi esprimo in pubblico nella vostra lingua. Qualora pensiate che anche un solo briciolo di malvagità abbia sfiorato il mio cuore, sappiate che io non ho mai detto ad alcuno di spaccare la testa ad un altro o di andare alla ricerca di sangue. Se siete convinti che io abbia mai pronunciato frasi del genere, non solo il 29 gennaio, bensì a partire dal momento in cui ho preso coscienza del mio essere e delle mie capacità intellettuali e morali, allora condannatemi pure alla sedia elettrica. È giusto e doveroso. Condannate il mio compagno alla stessa pena, perché è altrettanto giusto e doveroso. Ma di un'altra persona io desidero perorar la causa. Qualunque sia la vostra decisione nei nostri riguardi, prendete a cuore in nome del cielo il caso di quest'uomo, il signor Caruso. Egli ha trascorso in carcere con me 2 mesi. Conosco ogni pensiero della sua mente. Quale che sia la vostra decisione nei nostri riguardi, siamo noi gli unici responsabili. È Joe Hector, il capo dello sciopero. Io l'ho aiutato ed incitato in questo sciopero. Siamo noi gli unici responsabili. Se Anna Lopizzo è stata assassinata e voi siete convinti che sia stata uccisa per nostro influsso, solo noi, badate bene, soltanto noi siamo i responsabili della sua morte. Se siamo stati noi ad emettere la sentenza, non ha importanza chi l'abbia colpita. Ma abbiate riguardo per questo poveretto, per la moglie, per il figlio. Quest'uomo soltanto adesso è venuto a conoscenza del motivo del suo arresto e continua a domandarmi: ma perché non hanno detto la verità? Che cosa ho fatto? Perché mi trovo qui? Può darsi che stia parlando più al vostro cuore che alla vostra ragione. Ma desidero assumermi tutte le responsabilità. Signori giurati, io ho finito. Non vi chiedo di assolverci, non è il mio potere farlo dopo che il mio avvocato mi ha difeso con tanta competenza e nobiltà. Aggiungo tuttavia che ci troviamo di fronte a 2 possibilità. Se siamo colpevoli, lo siamo pienamente. Se quanto il procuratore distrettuale ha asserito su di noi corrisponde al vero, allora dobbiamo pagare con la pena estrema, perché è evidente che il delitto fu premeditato. Se ciò che ha detto è vero, significa che noi siamo andati a Lorenz con quel preciso proposito e che per anni e anni abbiamo studiato e maturato i nostri pensieri in quel senso. Allora da voi non possiamo che attenderci un verdetto di colpevolezza. Non ci aspettiamo però che addomestichiate le vostre coscienze, porgendoci al contempo una mano protettrice. Non vogliamo che concludiate i vostri discorsi dicendo semplicisticamente: beh, qualcosa è successo e qualcuno deve esserne responsabile. Equilibriamo i fatti sulla bilancia, facciamo metà e metà. No, signori. Noi siamo giovani. Io non ho ancora compiuto 29 anni, li compirò fra 2 mesi. Ho una donna che amo e che mi ama. Ho un padre e una madre che mi aspettano. È in apprensione per me. E la vita... la vita è così bella, è raggiante, è piena di fascino che la passione di vivere mi colma il cuore. Io desidero vivere. Lungi da me atteggiarmi eroe davanti a voi, tantomeno a martire, no. La vita mi è più cara di quanto forse non lo sia a molti altri. Ma non esito ad attestare che esiste qualcosa di più caro e nobile, e santo e sublime, qualcosa con cui io non potrò mai scendere a compromesso. Si tratta della mia coscienza, della mia lealtà verso i miei simili, verso i compagni che sono venuti qui oggi in quest'aula e verso la classe operaia del mondo intero che ha reso possibile la mia difesa, contribuendo penny su penny, e che in tutto il mondo si è preoccupata che non mi si facesse del male, che non subissi ingiustizia. Perciò vi prego, esaminate bene i 2 aspetti prima di giudicare. E se il vostro verdetto invece sarà tale da aprirci le porte del carcere, permettendoci di uscire per tornare nella luce assolata del mondo, allora lasciate che vi anticipi quel che faremo. Permettetemi di dirvi che il primo sciopero che scoppierà in questo Stato o in qualunque altro d'America, dove l'opera, il sostegno, la mente di Joseph Hector e Arturo Giovannitti saranno richiesti e necessari, noi vi andremo, incuranti di paure e minacce. Anonimi, modesti, misconosciuti, incompresi, torneremo alla nostra umile azione. Soldati del grande esercito della classe operaia che al di là delle ombre e del buio del passato lotta per l'emancipazione di tutto il genere umano, per l'instaurazione dell'amore, della fratellanza, della giustizia per ogni uomo e donna sulla terra. Se invece il vostro verdetto sarà contrario, se ci giudicherete tanto indegni da non meritare né la gloria né l'infamia del patibolo, se deciderete che i nostri cuori debbano essere soppressi sulla stessa sedia di morte, e dalla stessa corrente che ha annientato la vita dell'uxoricida, del parricida, del fratricida, allora lasciate che vi dica che domani noi saremo sottoposti ad un giudizio ben più importante. Domani passeremo dalla vostra presenza a quella in cui sarà la storia ad avere l'ultima parola sul nostro agire. Quale che sia il vostro verdetto, signori giurati, io vi ringrazio. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, Fratello mio, smetti di camminare. È sbagliato camminare su una tomba. È sacrilego fare quattro passi dal capo al piede della mia pietra tombale, quattro passi dal piede al capo della mia pietra tombale. Se tu smetti di camminare, fratello mio, questa non sarà più una tomba, perché libera mi renderai la mente, ora incatenata ai tuoi piedi, e con essa il diritto di pensare ai miei pensieri. Ti imploro, fratello mio, perché sono assai stanco della lunga veglia, stanco di contare i tuoi passi e non mi reggo più dal sonno. Fermati, riposa, che l'alba è assai vicina. E non è soltanto la chiave che può riaprire il cancello. Smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. Le bon, les forces de la fin, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte. Spettacolo L'auto da fè del camminante, tratto da L'autodifesa e The Walker di Arturo Giovannitti, adattamento e regia di Stefano Sabelli con Diego Florio. Lo spettacolo Postpartum, tutto quello che gli uomini avrebbero dovuto sapere e che le donne non hanno mai detto. Testo inchiesta di Betta Cianchini con Sonia Barbadoro, regia Luciano Melchionna. È il momento più dolce e atteso della neomamma. La donna finalmente diventa madre. È un miracolo. È il mistero della vita che si compie. E dopo atroci dolori, senti che dal basso ventre ti sguscia in su una specie di susina rinsecchita che sbava come una dozzina di lumache macchiata di sangue e roba gialla. Questa cosa non si sa come riesce ad arrivare fino al tuo seno. È incredibile, ma vero. Ti si attacca. Come ha fatto non lo sai, ma una cosa la capisci. Inizia una vita, sì, un'altra finisce. Lui nasce e tu ti guardi intorno, cerchi il tuo compagno, ti ricordi delle sue parole. Tesoro, stai tranquilla, ci sarò io accanto a te. Perché lui, lo spavaldo, durante il corso preparto faceva il fico. Dai amore, hai capito cosa ha detto la dottoressa? Stai tranquilla, prova a respirare, prova, dai, prova, respira. No, ma non vedi come fanno le acque, stai tranquilla. Tranquilla è una di quelle parole che mandano le mani. Quello che una volta era lo spavaldo di tuo marito, ora è un baccello, con la tuta cerata, verde ramarro, che danno in dotazione in ospedale. Sì, c'è una grande macchina distributrice, tipo quella delle bevande e delle merendine, ma tu invece dei tuc puoi prendere lavande vaginali, assorbenti.

bella, è bella la mamma. Tu non vuoi che la mamma non sia bella, vero? La mamma è bella, mamma, mamma. Lo spettacolo Postpartum, tutto quello che gli uomini avrebbero dovuto sapere e che le donne non hanno mai detto. Testo inchiesta di Betta Cianchini con Sonia Barbadoro, regia Luciano Melchionna. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Raf Valvola Scelsi della Shake Edizioni per presentare il libro Piccolo manuale di sciamanesimo, come lavorare con le sacre piante maestre, di Ross Heaven e Howard Charing. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Di cosa si tratta? Si tratta di un vero e proprio manuale, esito di decine di lavori sciamanici sul campo condotto dai due autori, che permette al lettore, cum grano salis, diciamo così, di poter fare una serie di piccole pratiche sciamaniche per migliorare la propria vita e soprattutto come fare per attirare la fortuna in amore, allontanare da sé la sfortuna, guadagnare una migliore attività commerciale, pulire il proprio campo energetico, trovare soprattutto nelle sacre piante maestre degli alleati importanti per poter operare in maniera consapevole, in maniera sana, appunto per guarire sé, per guarire anche nel caso in cui qualcuno faccia di mestiere il terapeuta o il guaritore, anche per aiutare gli altri. Ci presenti anche i due autori? Sono due personaggi importanti, sono entrambi inglesi, ma hanno entrambi avuto una educazione sul campo. Ross Heaven era un padrigno nella tradizione della santeria haitiana, infatti c'è una foto dentro il libro dove lui sta officiando una serie di riti con presenze anche che vengono invocate. Il libro incrocia due grandi tradizioni che sono da una parte la tradizione creola, quindi caraibica, di uso delle piante e dall'altra la tradizione amazzonica peruviana, che invece è appannaggio più dell'esperienza di Charing. Ross Heaven è stato, perché è morto nel frattempo, anche un autore di numerosi libri sulla santeria, ha scritto dei libri su San Pedro e su altre medicine importanti dell'America Latina. Invece la vicenda di Howard Charing è ancora più particolare, perché Howard Charing era alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, un CEO di una grande azienda di informatica a Londra, quando prese l'ascensore per andare a piano terra e improvvisamente crollò l'ascensore, e nel momento in cui stava cadendo con l'ascensore ebbe l'intuizione di mettersi in bocca un fazzoletto, cosa che gli evitò di tagliarsi la lingua con i denti e con il controbalzo. È stato due anni sostanzialmente immobilizzato in una sedia a rotelle in cura con diversi fisioterapisti, finché un giorno il fisioterapista gli disse: ma tu puoi guarire se lo vuoi, perché non hai effettivamente dei danni fisiologici o neurologici significativi, quindi sei tu che vuoi stare dentro la sedia a rotella. Allora da quel momento ha cominciato a rialzarsi, finché si è avvicinato appunto alla tradizione sciamanica grazie a una serie di contatti che ha avuto con una serie di figure legate al giro di Michael Arner, che è questo antropologo americano, il quale ha tradotto tutta una serie di pratiche sciamaniche, dimostrando come queste tecniche potessero essere anche utilizzate da noi occidentali. E quindi da lì è andato in America Latina, dove ha fatto diversi anni di apprendistato con uno sciamano che gli ha trasmesso tutta una serie di tecniche, sia nell'uso delle sacre piante maestre, tra cui anche la ayahuasca, e anche una serie di pratiche effettive che si devono utilizzare per entrare in contatto con gli spiriti delle piante. Allora, questo è un tema per noi chiaramente molto controverso, cioè che le piante abbiano non solo un'intelligenza, ma anche la capacità di poterci instradare e guarire per certi versi. E per spiegare questa cosa, i due autori dedicano un capitolo molto importante a questa che loro chiamano la dieta dello sciamano. una pratica di totale cancellazione di tutti gli alimenti che noi normalmente consumiamo, cioè di stare dai 40 giorni ai 3 mesi come minimo di sostanziale pulizia del proprio corpo, quindi mangiando solamente riso bollito, possibilmente senza sale, e unendolo con delle patate. Loro usano chiaramente in America Latina la manioca, noi abbiamo la patata come corrispondente, e anche essa senza sale. Dopo un lungo periodo di pulizia attraverso l'uso appunto di due alimenti così basici e al tempo stesso poco contaminati, il corpo è come se tornasse a una sua dimensione di default, cioè una sua dimensione di base pulita. A quel punto si possono introdurre delle tinture madri, degli oli madri oppure delle tisane fatte appunto con la pianta con la quale si vuole entrare in relazione. Prendendo un paio di volte al giorno, progressivamente ci si osserva come reagisce il proprio corpo, che a questo punto è stato depurato totalmente, è in grado di trasmettere facilmente e noi siamo in grado facilmente di percepire che cosa stia accadendo nel corpo, e quindi progressivamente si riescono a capire le qualità positive relative a questa pianta. Facciamo l'esempio del rosmarino. Il rosmarino è una pianta estremamente vigorosa che rinvigorisce il corpo. Assumendo un estratto del rosmarino si riesce a percepire progressivamente quali sono i suoi aspetti positivi. Questa cosa diventa più utile nel momento in cui ci si trova a guarire o a relazionarsi con persone che hanno bisogno di un aiuto dal punto di vista della salute o dal punto di vista dell'aura energetica, eccetera, eccetera. Allora, avendo delle piante come queste con cui si entra sostanzialmente in relazione e la pianta riesce in un modo o nell'altro a raccontare quali sono le sue qualità, si riesce anche a comunicare e a trasmettere e a individuare quali sono le piante e le essenze che devono essere date alla persona che ha bisogno. Chiaramente questa cosa presuppone anche una serie di altri passi, cioè come entrare in sintonia col proprio animale guida, con il proprio spirito guida, tutta una serie di cose che sono spiegate dentro il libro e che sono abbastanza facilmente perseguibili anche da noi. La cosa interessante che c'è dentro questo libro è che alla farmacopea creola e alla farmacopea dell'America Latina viene corrisposto in numerose pagine di erbari specifici anche l'analogo occidentale, perché ogni paese ha le piante di cui la gente di quel paese ha bisogno, quindi c'è la possibilità di tramutare tutta una serie di piante importanti, piante maestro dell'America Latina anche nel nostro analogo occidentale. C'è anche una novità per quanto riguarda la shake. Sì, finalmente dopo tantissimo tempo apriamo un nostro spazio, una libreria dove saranno disponibili tutti i libri storicamente da noi pubblicati. Ci sono anche molti libri che ormai sono andati fuori catalogo, di cui abbiamo ancora qualche copia. È un piccolo luogo dove faremo eventi, dove faremo seminari, appunto sarà luogo di vendita e sarà anche il luogo della redazione nostra, che sarà disponibile e aperta sicuramente il venerdì pomeriggio e il sabato, però ci sono anche altri giorni dove saremo aperti, però quello dipenderà da chi ci lavora dentro, e apre giovedì 28 novembre dalle 6 alle 9 via Ingegnoli 13 a Milano, è in zona Casoretto Lambrate, comoda con la linea verde, si scende chiaramente a Lambrate, e quindi finalmente Shake 6.0 apriamo di nuovo. Il libro Piccolo manuale di sciamanesimo, come lavorare con le sacre piante maestre, di Ross Heaven e Howard Chering. Un saluto e un ringraziamento a Raf Valvola Scelsi di Shake Edizioni che l'ha pubblicato. Alla prossima! Alla prossima! Con Paola Francesca Iozzi, autrice dello spettacolo teatrale Detenuti a cielo aperto, in scena a Roma, alla sede della Borgata Gordiani, all'interno di una iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, sabato 28 dicembre 2024. Ben trovata. Ciao, ben trovati a tutte. Cos'è questo lavoro? Detenuti a cielo aperto sono diverse voci, Per la maggior parte sono le voci di familiari e di persone vicine a chi è detenuto o detenuta. E nasce da una tesi di antropologia. Qualche anno fa ho fatto una tesi etnografica antropologica con i familiari dei detenuti e poi c'è stata un po' la necessità di portarlo fuori dall'ambiente accademico. E è nato appunto questo puzzle di voci. La ricerca iniziale com'era nata? 2 anni fa mi laureo in antropologia e l'idea era quella di fare una ricerca sull'assenza. Che cos'è l'assenza? L'assenza delle persone care. Quindi una delle ipotesi di ricerca era sulle assenze che si creano nei familiari delle persone che scompaiono in mare. Poi c'è stato il Covid, era impossibile uscire dai confini nazionali e quindi mi sono trovata a ragionare su quelle che sono le assenze della nostra quotidianità. E questa è stata una delle assenze su cui ho cominciato a ragionare. Insomma, l'assenza di chi è detenuto, di chi è privato della libertà. Quante testimonianze hai raccolto? Ho intervistato ufficialmente 4 persone e poi ci sono stati un sacco di chiacchierate informali da cui ho tratto molte informazioni. E la cosa interessante è stata che all'inizio io non avevo ben idea di cosa fosse questa assenza e piano piano, più andavo avanti nelle interviste, nella ricerca, e più mi rendevo conto che questa assenza in realtà è un pieno, è uno strapieno di cose che i familiari devono fare, di problemi che devono risolvere, che riguardano se stessi, riguardano la persona detenuta e riguardano l'ambiente sociale con cui a volte si trovano a mediare la detenzione, che non sempre è dichiarata, perché è uno stigma anche per il familiare. Quindi è stato un po' come scoprire che la detenzione non riguarda solo la persona detenuta, ma anche chi è fuori, tanto che il titolo Detenuti a cielo aperto è proprio una frase che mi ha detto una delle persone che ho intervistato, che adesso è anche una cara amica, e lei, che è moglie di un detenuto di lungo corso, mi ha detto: io sono una detenuta a cielo aperto. Un'altra cosa curiosa è stata vedere come alcune cose che succedono a chi è detenuto, per esempio il fatto che ci siano delle malattie di un certo tipo, poi possano avere un effetto anche sulle persone fuori. Come il carcere sia non solo, ovviamente lo sappiamo, no? Non solo l'istituzione carceraria, il posto fisico, ma proprio un dispositivo simbolico che affligge anche il corpo. Come affrontano questa condizione i familiari dei detenuti? Perché è una detenzione breve, quello che è molto vivo è il momento dell'arresto, che viene vissuto quasi come una piccola morte, e il momento in cui viene deve essere elaborato come un lutto, cioè proprio la fuoriuscita della persona dalla vita sociale in qualche modo, e il fatto che si deve ricostituire la presenza di quella persona in un modo completamente diverso. Per chi invece ha delle persone detenute per un periodo più lungo, viene affrontato mettendo in campo delle risorse, delle capacità che queste persone prima forse nemmeno sapevano di avere, il fatto che debbano mediare con l'istituzione carceraria, che loro stessi nel momento in cui entrano dentro l'istituzione vengono detenuti, quindi devono sottostare alle regole di quel luogo e che vengono trattati come detenuti. C'è una delle persone che dice: perché c'era questa guardia che mi trattava male. Dico: ma perché ti trattava male? Perché io ero carcerata come mia figlia, non vale niente quando sei così. Queste parole come sono diventate testo teatrale? Con un enorme sforzo, perché è stato estremamente difficile passare dalla forma, se vuoi, scientifica di una scrittura antropologica a quella teatrale. Ho cercato di rimettere dal vivo le voci che avevo registrato, quindi di dare a quelle voci la centralità, di dare a loro una visibilità che di solito non hanno. Forse è stata questa la chiave: mettere in pubblico qualcosa che pubblico non è, perché anche a livello sociale la comunità dei familiari dei detenuti e delle detenute non esiste. Del dibattito pubblico queste centinaia di migliaia di persone non esistono, e invece vengono fortemente gravate di quella che è la detenzione. Questa è stata la chiave. Come lo hai articolato? Come l'hai strutturato? Sono voci che sembrano sconnesse tra di loro, però appunto c'è questo filo rosso della detenzione. Sono una moglie di un detenuto che è anche mamma di questa figlia che hanno in comune con questa persona detenuta. Poi c'è un papà e una figlia, quindi anche la prospettiva dei figli che crescono a volte anche per molto tempo senza contatto col papà o con la mamma. E poi c'è un personaggio che non posso rivelare perché altrimenti rompo l'effetto scenico che si crea nella sorpresa. E poi ci sono alcuni detenuti poi c'è una sorella, ecco, sono diversi punti di vista. Ovviamente quello della bambina, del bambino piccolo, è completamente diverso da quello dell'adulto, della donna che deve fare 300 km per andare a trovare il marito. Che esperienza è stata per te? Scriverlo è stato tanto faticoso, perché ha significato per me anche rimettere in gioco una parte della mia biografia personale. Quindi in parte è stata anche andare un po' a vedere in un'ottica che non fosse più solo quella personale, un'esperienza mia diretta. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? C'è un video su YouTube che si chiama proprio Detenuti a cielo aperto e a breve ci sarà la pubblicazione appunto sul web sia della tesi che del testo teatrale. Lo spettacolo teatrale Detenuti a cielo aperto a Roma, la sede della Borgata Gordiani, sabato 28 dicembre 2024 all'interno di un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Paola Francesca Iozzi. Alla prossima! Grazie. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.